voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, 12ª puntata. Poi Luciano uscì fuori e non gli fecero niente. Tornò Carletto vergognoso e ci trovammo in trattoria. Erano tutti gli stessi. Luciano disse che picchiato non l'avevano, ma lo disse così per non darsi importanza. Giulianella mi disse più tardi che aveva veduto la mamma di un altro ritirare dal vestiario una camicia insanguinata. «Mi hanno preso per fare un confronto», ci disse Luciano. «È una storia di quando lavoravo a Torino. Conoscevo una bella ragazza che faceva la vita. Un mese fa mi viene in mente di scriverle, baci Luciano, è bastato. Lei era già dentro. Non ti avevano preso per via di quelli del caffè?» dissi. «Ci credevo anch'io, invece no, quella ragazza è comunista. Quando mi ha visto ha riso in faccia ai questorini. Quello, ha detto, quello canta al Nirvana». Non sapeva cos'ero e in questo modo mi ha salvato. «Sai, stai fresco se passi per rosso». «Ma tu non sei mica rosso», gli disse Dorina. Erano sempre gli stessi. Carletto taceva, Fabrizio disse che era meglio non vederci per un po'. «Chi sta bene sei tu», mi disse Giulianella. «Te la fumi tranquillo. Smettiamola e andiamo a ballare». Passammo la sera sul Tevere ballando noi due. Feci ballare anche Dorina. Carletto era moscio, sembrava che lui fosse uscito dal carcere. Stava attaccato al suo Luciano e gli parlava sottovoce. Non rideva stasera. «Ti ricordi quel sogno dei gatti?» gli dissi. «Quale sogno?» faceva l'uomo preoccupato. Quasi quasi gli chiedevo com'è, se l'erano passata in campagna. Ma mi tenni e gli dissi che i libri li avevo buttati nel Tevere. «Quali libri?» «Oh, smettila, scemo», gli dissi. «Può succedere a tutti di andare in campagna». «Li avevi letti tu, quei libri di Dorina?» Li aveva letti. E litigammo fino al giorno. Lasciò che Dorina dormisse da sola. Stette con me sulla piazzetta davanti al ponte e discusse come un gatto arrabbiato. «Anche in Russia», diceva. «Andava come in Italia. Guarda in Spagna», mi disse. «Sono i rossi che fanno di tutto per perdere la guerra». «Quando si perde tutti hanno colpa», saltai su. «Ci sei stato tu in Spagna? Ma in Russia hanno vinto, sì o no?» Lui diceva che in Russia si stava come in prigione. «In prigione qualcuno ci vuole», gli dissi. «Ma che comandi chi lavora è una gran cosa». «Non ci comanda chi lavora», disse lui. Quando andammo di sopra, lui per mettersi a letto, io per farmi la barba, trovai la Marina al balcone, in camiciola. «Per girare a quest'ora ci voleva la chitarra», mi disse. «Era meglio se andavi a sentire una messa». A me, di Roma, piaceva l'aria fresca. Sempre a quell'ora mi sarei svegliato. In cucina trovai le ciliegie. E mangiando al balcone mi ricordavo quell'inverno che rientravo al primo chiaro e pigliavo il caffè alla stazione o nei bar. Per mal che vada, pensavo contento, anche in prigione c'è quest'ora ogni mattina. Che non ci fosse un comunista in tutta Roma da parlargli. Quella ragazza di Luciano che era dentro, quella sì avrei voluto vederla e parlarle. Chiesi in quei giorni a tutti quanti se qualcuno ne sapevano. Li feci ridere e Carletto si arrabbiava. Mi diceva che è facile trovare delle scuse, ma che il primo lavoro è far fuori i fascisti. «Senti», gli dissi un'altra volta, «se i fascisti ce l'hanno, speciale coi rossi, ci sarà il suo motivo». «È solamente concorrenza», disse lui. Intervenne Luciano. «Pablo vuol dire che finché c'è il capitale ci saranno i fascisti». Venivano adesso a trovarmi in bottega, specialmente Carletto, ma quasi quasi preferivo far discorso con Luciano, perché lui qualche volta capiva che avevo ragione. «Ma allora», dicevo, «lascia perdere quelli che vanno al caffè, stai coi rossi». «Non c'è bisogno», lui diceva, «ci sono loro e ci siamo noi. Vinceranno alla fine, noi li avremo aiutati così. Se saremo ancora vivi», ghignava Carletto. Anche Gina ascoltava, senza mai dire niente. Ne sapeva ancor meno di me, ma ci seguiva. «Quanto è scemo e testardo quel Carletto», le dissi una sera. «Ma perché non capisce che lavora anche lui per vivere? Perché è gobbo, mi fa». Io stavo attento agli avventori del negozio e cercavo di farli parlare. Quando entrava qualcuno in gamba davo mano al giornale. «Come va questa guerra di Spagna?» dicevo. Ma Solino era il solo che mi desse risposta. Lui andava e veniva dall'osteria alla strada, masticava la sua cicca, si fermava a sputare. Ci sarà del lavoro una volta finita la guerra, diceva. Buttan giù tante case. Ma i più giovani, la gente del ponte, ascoltavano appena. Non ce n'era uno solo che guardasse il giornale. Accidenti, pensavo. O che invecchio o sono scemo. Una volta ero anch'io come loro e leggevo soltanto lo sport. C'era dei giorni dentro Roma che il calore soffocava. Mi venne voglia di rivedere il mare. Provai qualche volta con Gina a salire sul tram, ma andavamo di domenica e la folla era peggio che a sera sul corso. Anche arrivati bisognava fare a piedi chissà quanto per trovare 2 metri di sabbia scoperta. Ma sotto il sole era bello vedere quell'acqua. C'erano dei giorni che sembrava un cielo unito, l'acqua e l'aria, e nuotandoci dentro si perdeva la vista. Gina restava sulla sabbia e mi aspettava. Certe ragazze che vedevo entrare in acqua mi piacevano. Chissà se qualcuna va al largo e si spoglia, pensavo, vedendole. Poi le sere di mare tornavamo in città e restavo a cenare e ballare con gli altri. Erano di nuovo in trattoria tutti quanti. Ci veniva anche Gina. Quelle sere, bevendo e ballando, tutto l'inverno mi tornava in mente. E il paradiso, e i camion. Pensavo che niente ci fosse di nuovo. Che invece di Gina girasse per Roma con me qualcun altro. E ridessimo, andassimo insieme, bevessimo il vino. Ero certo che un giorno l'avrei riveduta, che qualcosa sarebbe successo. Poi mi tornava in mente Amelio e ci soffrivo. Quell'officina sull'Aurelia mi piaceva. Si traversavano dei prati a Montagnola, era uscire da Roma. Vulcanizzavano a buon prezzo i copertoni e far la strada conveniva. Ci lavoravano operai del Trionfale, 4 o 5 ne trovavo allora morta là davanti, mentre giocavano alle bocce. Mi fermavo a discorrere. Questi sì che capivano al volo una parola. Siamo pronti se viene il momento, dicevano. Chi più chi meno avevano tutti 40 anni. Si ricordavano dei tempi della guerra e degli scioperi. Eravamo ragazzi, dicevano. Non si è capito a quell'età quel che successe. Ma un'altra volta l'operaio non ci casca. Ce n'era uno giovane, Giuseppe, che a suo padre gli avevano rotto la testa. Lui sapeva perché gli squadristi l'avevano vinta. Ci dicevano rossi, ma non lo eravamo mica. Ci saremmo difesi, li avremmo pagati. Dove i rossi ci sono sul serio, finisce un po' diverso. Quando gli chiesi se ce n'era adesso a Roma, lui mi disse, chissà, a buon conto noi altri si aspetta. Un pomeriggio mi condusse dal suo vecchio. Stava in un buco al 5° piano di una casa sterminata. Non so perché, mentre salivo, mi pareva di aver già fatto una volta quelle scale. Si sentiva bambini gridare da tutte le parti. E quell'odore di sporcizia, di spezie e di caldo che si sente anche al mare. Giuseppe disse, c'è un amico che vuol vederti, papà. Il vecchio stava seduto in cucina e mangiava del pane. Masticava e guardava, a una luce cattiva, gobbito sul tavolo. Non si mosse. Giuseppe disse a me, vogliamo sederci? Toccò a me far le spese e spiegarmi. Né Giuseppe né il vecchio parlarono per primi. Misero fuori 3 bicchieri e mi ascoltavano. Neanch'io non ero troppo chiaro nel discorso. Dissi a quel vecchio che sapevo le sue idee e che volevo mi spiegasse qualcosa. Ero nuovo di Roma, dicevo. Lui mi ascoltava e mi guardava. Aveva gli occhi fermi e grigi come l'acqua. «Chi conosci?» mi chiese. «Poi se ne parla», gli risposi e andai avanti. Mi sarebbe piaciuto, dicevo, sapere cos'era successo nel 20. Perché i capi non si erano fatti più furbi? Perché i rossi di allora non erano rossi? Se adesso tutti erano andati a far la Spagna e se finiva anche laggiù come in Italia. Non ti ha detto qualcosa Giuseppe? Mi disse. Se parlato, risposi. Ma poco. Che vuoi che ti dica? Mi fece. Vedi bene la vita che ci fanno. A Torino con gli altri non parlavi di quel che succede? Che Torino? Sapevo appena ballare. Ma sul lavoro, non andavi in fabbrica? Gli spiegai dei tabacchi e del tempo perduto. Lui mi guardava con quegli occhi grigi, chiusi. Dissi allora, vogliamo fidarci? Chi non si fida, figlio bello, disse lui. Voglio sapere solamente che ti piglia. Chi conosci qui a Roma? Allora dissi dove stavo e chi vedevo. E con loro non parli del 20 e del 21? Non è gente che capisca molto. Ma ho letto una cosa e gli dissi che avevo veduto quei libri. Lui non mi chiese di chi fossero e parlò degli squadristi. Disse che prima erano gente comandata e ben decisa, che sapevano quel che volevano, fare fortuna. Ma la guerra che ci fanno adesso è un'altra. Gli squadristi sono tutti a riposo. Non serve più menar le mani. Abbiamo addosso la questura e i funzionari. Semmai sono questi che ti picchiano. Quando mi chiese se ero pronto, non gli seppi dar risposta. Ma una cosa che aveva era questa. Più che ascoltare le risposte, le troncava. Qualche volta io dicevo qualcosa, lui parlava già d'altro. Alla fine mi disse che stessi tranquillo, che pensassi al mio negozio e vedessi Giuseppe. Nella stanza era notte. Uscendo in strada ero tutt'altro che contento. Mi accorgevo che avevo parlato da scemo, che ero come un ragazzo, che quel vecchio Giuseppe non erano mica del giro di Carletto. Quel che avevo voluto sapere non c'ero riuscito. Che mi avessero preso per spia poteva anche darsi, ma mi accorgevo che per loro ero soltanto un chiacchierone. Perché qui, perché là, se vogliamo fidarci, perché i capi non si sono fatti più furbi. Erano cose che a pensarci mi levavano il fiato. Girai per Roma ripensandoci e cercando di capire, però mi sembrava di essere stato sincero, più franco e più sincero di loro, anzi gli avrei detto perfino di Gina volendo. Poi pensai che Giuseppe potevo rivederlo e che adesso era un altro discorso anche con lui. Ci pensai sopra un'altra volta e andai a casa. All'officina non tornai così di brutto. Aspettai che venisse una giusta occasione. Di giorno lavoravo e la sera leggevo. Con Luciano e Carletto era sempre lo stesso discorso, ma specialmente da Luciano avevo cose da imparare. Lui sapeva per filo com'era andata la guerra di Spagna e più diceva più capivo che quei rossi erano i miei. Da Giuseppe tornai con delle camere d'aria a tracolla. Passai sotto alla casa del vecchio. Levai la testa al quinto piano pedalando e pensavo che a Roma di case così ce n'erano tante. Bastava un rosso per portone, erano molti, poi c'erano quelli carcerati, quanti in tutto. Giuseppe venne con me all'osteria a bere un mezzo, si parlò della Spagna e di tutto. Io gli chiesi del giro e che cosa ne pensava, lui mi disse, chi sono? Gente così, gli raccontai, che non sa andare fino in fondo. Giuseppe allora mi spiegò che tutto serve, anche i signori. Non guardare alle mani, mi disse. Non quello che vogliono conta, ma quello che fanno. Io gli spiegai che non capivo un disgraziato come noi che si mettesse coi padroni. È per questo che si fa propaganda, mi disse. Questa volta mi imprestò dei fogli proibiti e un libricino che sembrava il catechismo. Il giorno dopo, discutendo con Luciano, lui mi dice «Chi ti insegna le cose che sai? Da quando in qua leggi i giornali?» Avevo letto quella stampa nella notte e già fruttava. Capii quel giorno che la stampa non serviva solamente a minacciare, ma a convincere. Prima d'allora non me l'ero mai sognato. Dopo cena provai con Gina nella stanza. Girava in tuta e mi ascoltò asciugando i piatti. Le lessi tutto il catechismo. Lei lasciò che finissi e poi venne sul letto e si mise distesa. Queste cose, mi disse, le faranno o le dicono? Ci sono dei posti che le hanno già fatte. Ora tocca a noi altri. Lei fumava e guardava la volta. Com'è difficile, Pablo. Fanno paura queste cose. E se ti prendono? Tocca ferro, le dissi, e ridevo. Per stare meglio tutti quanti, disse lei, cominciate a star peggio voi altri. Fermati qui, mi disse brusca e mi abbracciò. Non andartene ancora. Tutte le volte che leggevo o che parlavo, lei riusciva a portarmi nel letto. L'aveva capito da un pezzo e sapeva giocarci. Anche stavolta lasciai fare e mi fermai. Feci bene, perché a metà sera toccarono l'uscio. Era Giuseppe che veniva a continuare quel discorso. L'estate a Roma non finisce mai. Quelle notti cortissime duravano sempre. Andammo in giro con Giuseppe fuori Roma e mi portò in un paese, Sant'Oreste, dove c'era una festa e si parlarono in quattro sotto gli ulivi della strada. Io, seduto a una svolta, facevo la posta a chi andava e veniva, se il maresciallo si muoveva dalla piazza. Un altro giorno mi mandò sulla Salaria a dare un pacco in una bettola a un soldato. Questo soldato uscì dal retro senza giacca. sembrava di casa là dentro. Si sedette al mio tavolo con la faccia contenta e mi chiese se non avevo dell'altro da fare. Poi cominciò a parlare basso e a far domande, se mi piaceva quel lavoro, se in giro vedevo qualcuno, se conoscevo questo o quello. Lasciai correre, non gli feci capire che l'avevo capito, solamente non dissi niente di più. Ci lasciammo contenti. Ricordo che da diversi giorni non vedevo Carletto. Gina sul lido aveva preso troppo sole e non poteva camminare. La sera venivano Luciano e Giulianella a trovarla. Un mattino Carletto mi piomba in negozio e mi racconta che ha visto qualcuno e mi chiede se vengo nel centro. Disse che forse gli riusciva di rientrare al varietà. Per la strada parlammo di quando eravamo a Torino. Lui s'agitava così gobbo e mi pareva di vederlo al paradiso. Saltò a chiedermi se la chitarra la suonavo di notte e se all'idea di camparci non avevo più pensato. «Ma che cosa succede?» gli dissi. «C'è qualcuno che vuole vederti». Eravamo sul corso, salì gli scalini del plaza e mi disse «Non entri?». Mentre aspettavo in quel salone non sapevo cosa dirmi. Fortuna che avevo una giacca decente. Mi danno sempre soggezione più degli altri i camerieri. Poi la vidi, vestita da estate, seduta dentro una poltrona e mi guardava. La riconobbi più dal gesto di non muoversi che dalla faccia o dalle gambe. Mi chiamò con la mano. Io pensavo, non posso scappare perché aspetto Carletto. Mi ci volle un secondo a capire che Linda era chi lo mandava, che quel ritorno di Torino era lei sola. Quando lo seppi, ero già andato alla poltrona e le parlavo. Mi fece le feste e voleva sapere. Era lei come offesa e scherzava e rideva. Maledetto Carletto, lui ha tagliato la corda. Glielo dissi e lei rise subito, poi mi fece quel broncio. Tanto ti importa di vedermi? Allora vattene. Vuoi che usciamo? Mi disse. Allora andammo per le strade e mi cozzavo nei passanti. Dopo un po' ci trovammo sul Tevere contro il muretto. Che cos'è che vuoi dirmi? Le chiesi. Niente, mi disse, se la prendi a questo modo. Mi fa piacere rivederti, una sciocchezza, e sapere se vivi contento. E tu, com'è che sei a Roma? Dissi. Era tutta abbronzata e vestita leggero, non mi sembrava più la stessa. Sei stata al mare? Dissi ancora. Anche tu sei più nero, mi disse. Poi raccontò che andare al mare è sempre un rischio, si è nelle mani della gente. Chi ti tocca, non si può mai starsene soli. Ho passato 6 giorni, mi disse, che ero proprio felice. Nessuno con me. Pensavo ci fosse qui Pablo. Ero sola dal mattino alla sera. Tu vai? Mezza giornata la domenica e mi scoccio. Sei sempre quello, disse lei. Ma quante cose non mi dici? Ti piace Roma? Cosa fai? Guadagni soldi? Carletto mi ha detto qualcosa, riprese. Ma Carletto non è come noi, non capisce. Voglio sapere se vuoi sempre far quattrini. Ti sei trovato la ragazza che ti piace? Carletto mi ha detto di sì, te la sposi? Le raccontai che stavo bene perché di niente e di nessuno mi importava. Il lavoro che faccio mi piace, le dissi. E ho capito che il modo di farli è pensare a tutt'altro. Mi sembra sempre che qui a Roma sono entrato l'altro ieri. Qui è festa, anche i giorni feriali. Senti, mi disse, devi dirmi tante cose. Tu dove mangi? Dove stai? Ceniamo insieme? Questa sera non posso, le dissi. E quest'oggi lavoro. Senza lasciarci andammo invece in una bettola a mangiare. Disse, mi aspettano, bisogna che li avverta. Non c'era il telefono. Chi ti aspetta? Le dissi. Si fermò sulla porta a guardarmi e sorrise. Che vadano, disse. Voglio stare con te. Si sedette e mi parlava come fossimo amici. Io per vederla mangiare avrei dato ogni cosa. Si ricordò della chitarra e me ne chiese. Roma è fatta per te, lo so bene. Qui piace a tutti un suonatore di chitarra. Non mi hai mai detto che eri stata a Roma. Lei sorrideva e mi guardava. Mi raccontò dell'atelier e di tante cose. Hai fatto male, mi diceva, a partire così, senza dirmelo. Guarda un po', dissi allora. Lei fumò una boccata e mi prese la mano sul tavolo. Non credere, disse. So tutto quello che hai passato e mi dispiace. Quando fui solo e fu sparita lungo il corso, tutta Roma era un'altra ormai. Ci saremmo veduti alle 5 per cena. Mi aveva detto che voleva accompagnarmi nei miei posti, vivermi insieme anche soltanto quella sera. Voglio ancora ballare con te, aveva detto. Voglio ancora parlarti. In 3 ore dovevo tornare, pulirmi, passare in negozio, far tutto. «Cosa c'è?» mi gridò la Marina vedendomi entrare. Poi nel negozio trovai Gina che era in piedi e mi passò una commissione di Giuseppe. Era venuto poco prima e non aveva detto niente, ma sapevo che quando veniva mi aspettava sul tardi. Mandai Pippo a portargli una gomma e dicesse che avevo da fare. Gina s'accorse che qualcosa c'era in aria. Avrei dovuto passare prima dal negozio e poi a casa. «Sono andato a cambiarmi perché vedo qualcuno», le dissi. «Non torno a casa questa sera». Finalmente, nel sole ancor tiepido, ci trovammo sul corso. Linda aveva il vestito di prima, le gambe scoperte e un braccialetto d'oro al polso. Sembrava che fossimo al mare. Io facevo, correvo, ridevo, come quando si dice «quest'oggi non conta, ci penso domani». Tante ragazze avevo visto all'improvviso per le strade e detto «è Linda», che per un giorno non dovevo aver paura di caderci. «Dove mi porti?» disse lei. Girammo, a zonzo. Rifacemmo i discorsi di prima. Disse che ancora non capiva di quel giorno all'atelier. Lei ce l'aveva solamente con Carletto, quella lingua. «Il fatto è che tu non volevi saperne», mi disse. «Non puoi capire che una donna abbia una vita come gli altri. Tu sei fatto così». Per il momento mi sembrò di aver di nuovo il batticuore e fui quasi per crederle e dirle «ti sbagli». Se tutte quante quelle notti e quelle rabbie erano state per nulla, veramente dovevo buttarmi nel Po. Ma non mi tornò il batticuore. Troppe volte ci avevo pensato. Non mi importava che Lubrani fosse a Roma insieme a lei. Non mi importava che la Gina mi aspettasse alla baracca. Mi importava soltanto di averla vicino, di tenerla per il braccio, di darle del tu. Mi importava che fosse una nuova ragazza e che lo sapesse anche lei. Per me, le dissi, questa sera è un'altra cosa. Noi non ci siamo conosciuti che quest'oggi. Qualche Amelio ti manda e tu giri con me. Allora Linda fece un grido e si fermò. Non te l'ho detto e ci ho pensato tutto il viaggio. Lo sai cos'è stato di Amelio? Mi parlò nell'orecchio. Faceva il rosso, il comunista, e c'è cascato. L'hanno portato nelle carceri in barella. Alzai le spalle e feci come non credessi. Proprio a te l'hanno detto, le dissi. Chi ti dice che fosse coi rossi? Ma stavolta le mani tremavano a me. Possibile, dissi. Se non poteva fare un passo giù dal letto. C'è bisogno di muoversi, disse. Lavorava già prima. Non ti ricordi i giornali che leggeva? Gli hanno trovato materiale nella stanza. Deviammo insieme in una strada semivuota. Tutto il cielo era rosso, era bello. Qualche vetrina era già accesa. Rivedo ancora quella strada come allora. Linda aveva negli occhi il riflesso del cielo. Parlava brusca e sembrava ridesse. «Linda, non sono più lo stesso», dissi forte. «Finirà che ne ammazzo qualcuno». Lei disse piano: «Mi fa pena, che vuoi farci?» Non aveva capito. Era bene così. Mi raccontò che ai primi tempi lei gli aveva dato mano quando andavano insieme Vercelli e Novara. Quella notte che Amelio si era rotta la schiena, gli aveva tolto lei di tasca delle carte. Poi, leggendole, aveva capito il pericolo grosso. Quelle carte dicevano chiaro di star preparati, che sarebbe venuto il momento. «È per questo che tu l'hai piantato», le dissi. Rispose arrossendo, o mi parve, in quell'aria. «E adesso è dentro, sopra un letto, come un morto. Finirà che lo portano a Roma», mi disse. «Lo hanno preso alla fine di maggio». Fino a cena parlammo di Amelio. Venne il momento che mi disse: «Adesso basta. Se riesce vivo, chiedi a lui come gli è andata». Cercava di ridere. Per non pensarci bevemmo del vino. Linda disse: «Non andiamo al paradiso?» Un'ora prima avrei goduto a quest'uscita, ma adesso era come parlare dell'inverno e di quando ero un altro. «Bevi ancora», le dissi. «Non ho voglia di musica». Entrò un cantante e una chitarra e ci seccarono. Linda rideva e mi chiese se ancora non mi ero messo a quel mestiere da romano. Ce ne andammo a ballare sul Tevere. Fu la solita cosa. Lei mi parlava nell'orecchio, si appoggiava tutta a me e venne il momento che le dissi: «Andiamo a casa». «Non ho casa», mi disse guardandomi. «Non vivo da sola». Io pensavo a Giuseppe che mi aveva chiamato. Pensavo a Torino e a quel grosso dolore. Pensavo a tutti i batticuori e le superbie. Non riuscivo a rivoltarmi. Se adesso Amelio fosse qui, cosa direbbe, mi chiedevo. Se sapesse che sono dei suoi. Non mi faceva più paura avergli presa proprio Linda. Quella sera sapevo che le donne non contano. Mi chiedevo semmai se valeva la pena, se non dovevo correre subito con gli altri a lavorare. Amelio, dicevo, ci aspetta in prigione. Ballai con Linda un'altra volta e lei mi disse: il mascherino, te la ricordi quella sera che giocavamo all'avvenire? Non si sa l'avvenire, le dissi. Puoi dire soltanto da quello che hai fatto che cosa farai. Questo è vero, mi disse. Si fanno sempre le cose che abbiamo già fatto. Ma non sempre tu sai cosa hai fatto, le dissi. Tutti i giorni ne impari una nuova. Allora Linda si fermò e mi disse: andiamo. Camminavamo su quei ciottoli che sembrano pianelle. Linda diceva: com'è bella questa Roma. Vuoi che andiamo in un bosco, le dissi. Si mise a ridere e mi disse: le sai tutte. Mi fermai, la baciai, lei mi tenne le mani. A Torino facevi più storie, mi disse. Salimmo la scala dei monti e non c'era nessuno. Sotto le piante ci baciammo per un pezzo. Com'è bello, mi disse. C'era l'odore delle piante e c'era il suo. Ci sei venuto con le donne in questo posto? Allora le dissi che avevo pensato a venirci con lei. Se non fosse che tu non ti sposi, le dissi, sarebbe bello averti a Roma, qui con me. Lei mi strinse le mani e parlò della bionda. A sentire Carletto è una stupida, disse. Ti viene dietro come fanno i cagnolini. Io credo invece che tu l'abbia innamorata. Le hai parlato di me? È un'altra cosa, dissi allora. E tu sei qui. Ci ribaciammo. Lei disse: andiamo al Plaza. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.